Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Innovazione e sostenibilità energetica sono due categorie che sempre più si associano al mondo dei trasporti ferroviari. Grazie alla cura del ferro in Italia e ai programmi di sviluppo promossi dall'Unione Europea, questo settore infatti sta imboccando una strada che punta a maggiore efficienza per cercare di colmare un gap che ci rende ancora poco competitivi. Gli interventi non riguardano solo la scelta di combustibili alternativi, ma il ricorso a nuovi materiali, a soluzioni ingegneristiche all'avanguardia e a sistemi di manutenzione digitalizzata sui mezzi per garantire anche maggiore sicurezza. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Innovazione, ma anche sostenibilità energetica. Il mondo ferroviario si prepara a delle importanti trasformazioni, forte anche del sensibile incremento di traffico merci che si sta registrando in questi ultimi mesi. Un successo legato alla cura del ferro voluta dal Ministero dei Trasporti, ma anche ai programmi di sviluppo promossi dall'Europa. E allora oggi facciamo un po' il punto su queste novità in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, l'ingegner Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, oltre che noto esperto del settore ferroviario. Ingegner Resta, cominciamo proprio dall'efficienza energetica. È declinato un po' in modo particolare nel settore ferroviario, che è comunque un settore in cui la trazione è ormai per una gran parte elettrica. Efficienza energetica, che vuol dire però nuovi materiali sempre più leggeri, non soltanto materiali meccanici, metallici, quindi dei carrelli, delle casse, delle infrastrutture, ma anche sulla parte elettrica, quindi nuovi convertitori, nuovi motori. Ci sono poi progetti di infrastrutture che vanno a valorizzare aspetti di recupero energetico. Ci sono delle start-up che stanno lavorando su delle traversine che recuperano energia elettrica al passaggio del treno. Ci sono dei sistemi di energy harvesting proprio per recuperare l'energia, che non dobbiamo vedere semplicemente energia per il viaggio, per il trasporto, quanto per evitare dei cablaggi importanti e quindi un costo dell'infrastruttura del veicolo molto maggiore. Ecco, per tutti questi progetti e questi processi di sviluppo, quanto è importante il sostegno dei programmi di ricerca europei? Il trasporto ferroviario è per sua natura interoperabile, quindi viaggia all'interno delle nazioni, viaggia al di là dei confini, al di là di quelle che sono i limiti tra una nazione e l'altra, quindi non si può non ragionare a livello almeno di Europa. Quindi l'interoperabilità, la normativa, che è ormai una normativa comunitaria, necessita di programmi europei, e quindi la ricerca proprio nel dare da un lato la creazione di tavoli di lavoro, dall'altra programmi di ricerca europei, è l'unico modo per fare in modo che questo trasporto superi quelli che sono le singole nazionalità e che quindi diventi poi veramente una realtà a livello europeo. Proprio il Politecnico di Milano qualche anno fa ha lanciato un tavolo che è stato poi quello che ha creato gli standard per l'alta velocità ferroviaria in Italia, un tavolo che si avvale della collaborazione di tutte le imprese private del settore, ancora attivo tra l'altro. Sul fronte del trasporto merci, come potrà intervenire nell'immediato nel dibattito sull'utilizzo delle linee ad alta velocità anche appunto per il traffico merci, quello che una volta era il cosiddetto progetto della alta capacità? Il Politecnico di Milano ormai 15 anni fa ha costituito quello che noi chiamiamo Joint Research Center, cioè un centro di collaborazione, perché riteniamo che avere un tavolo che disegni la ricerca nel settore ferroviario sia assolutamente fondamentale per chi fa innovazione e ricerca nel settore. Naturalmente avere tutte quelle innovazioni di cui si parlava, di materiali, di efficienza energetica, di leggerezza, permetterebbero poi di avere merci meno aggressivi sulle infrastrutture, quindi magari un loro utilizzo su alcune infrastrutture. sicuramente si può pensare a un merci a composizione bloccata o a composizione più flessibile, più modulare, che oggi è un passaggio ancora importante, non ho realizzato completamente. Sui merci si può fare, si deve fare moltissimo, perché sicuramente il trasporto oggi di merci sul ferro non è ancora competitivo. E direi forse che è la sfida per il futuro, esatto, nel settore. Esatto. Bene, ringraziamo l'ingegner Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che è stato ospite in questa prima parte della nostra trasmissione. Continuiamo a parlare di innovazione nel settore ferroviario. Lo facciamo in compagnia di Alessandro Lopalco, che è un membro di ASSIFER, l'Associazione dell'Industria Ferroviaria, appunto, italiana. Ingegner Lopalco, c'è un tema sicuramente interessante, un po' anche legato al futuro di questo mondo, che è quello della manutenzione predittiva. Ci spiega di che cosa si tratta? La manutenzione si suddivide in due grandi campi, insomma, la manutenzione preventiva, che giusto per fare un'analogia col mondo dell'automobile, quando uno porta l'auto a fare il controllo. La stessa cosa vale per i treni o i locomotori, quindi quando si tratta di manutenzione preventiva è una manutenzione che serve appunto per controllare la situazione di un locomotore e di un treno ogni tot di chilometri. Dall'altro canto abbiamo la manutenzione correttiva, che è quando succede un problema, il locomotore o il treno deve essere messo a posto, quindi deve essere riparato. Per aumentare la disponibilità, che è la cosa che interessa di più un po' gli operatori, questo nel mondo ferroviario, sia per il trasporto delle merci che per il trasporto dei passeggeri, e utilizzare i propri mezzi, quindi locomotori o treni, quasi al 100%. E questo lo si può fare con questa manutenzione di tipo innovativo, che è la manutenzione predittiva, ovvero con uno scambio di molte informazioni che risiedono a bordo del locomotore o del treno, e questi dati vengono scambiati con una centrale operativa, e il continuo confronto di alcuni parametri con quelli che sono i parametri di riferimento permette poi a chi fa manutenzione di analizzare al meglio e di prevenire ulteriori problemi che possono nascere magari prima della prossima manutenzione preventiva. In questo modo, durante il prossimo tagliando che il manutentore fa, riesce anche a sistemare cose che altrimenti porterebbero un disservizio, magari un fermo del locomotore o del treno, diminuendo quello che è il parametro di riferimento, che è la disponibilità. Quindi mi sembra di capire è tutta un'attività legata a questo scambio, anzi a questa raccolta, a questo scambio di dati informatici e telematici che i veicoli raccolgono appunto durante il loro viaggio. Ma quanto impatta questa manutenzione predittiva sul fronte della sicurezza? L'impatto è sicuramente di avere tutti i mezzi che possono circolare con una maggior sicurezza, una maggiore efficienza e una maggiore disponibilità. Questo è un vantaggio per l'utente finale, che può essere appunto il passeggero stesso o le merci trasportate, nonché poi l'operatore, perché come dicevamo prima, l'aumento della disponibilità permette in sostanza di avere sempre dei mezzi funzionanti e non fermi. Certo, in manutenzione. Quanto è diffusa questa tecnica in Italia e nel resto d'Europa? Ma diciamo che si sta diffondendo, è un po' una tecnica innovativa, si parla tanto anche di digitalizzazione, e questo è un po' un esempio della digitalizzazione in campo manutentivo. E grazie appunto all'aumento degli scambi via internet e poi attraverso vari sensori a bordo appunto del materiale rotabile, quindi dei treni e dei locomotori, che tutto questo è sicuramente permesso, lo scambio di dati con poi il controllo nelle centrali operative. Ecco. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.